Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Il settore della logistica svolge un ruolo essenziale nella tenuta di tutta la catena degli approvvigionamenti nazionali. Si calcola che le scorte di ogni bene e prodotto, essenziale e non, possano essere sufficienti per soli 5 giorni, al termine dei quali si rischierebbe di entrare in grave sofferenza. Per questo i trasporti e la logistica sono elementi strategici di ogni nazione ed è per questo che governi e istituzioni sono impegnate a preservare e innovare il sistema, rendendolo sempre più sostenibile ed efficiente. In questa prospettiva, in Italia è stato recentemente lanciato un piano di finanziamento rivolto agli operatori dell'autotrasporto merci per favorire il rinnovo del parco veicolare. Veicoli più nuovi significano infatti maggiore sicurezza, maggiore sostenibilità e minori consumi. Obiettivi che si possono raggiungere anche grazie alla formazione degli autisti, tenendo conto delle più corrette tecniche di guida. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Un mondo che si sta avvicinando sempre di più al tema della sostenibilità. In queste ultime settimane le case costruttrici hanno presentato le loro ultime novità sul fronte dell'autotrasporto, tutte con un unico comune denominatore che è quello appunto dei carburanti alternativi, della sostenibilità. A contribuire a tutto questo processo di trasformazione i contributi che il governo ha messo a disposizione per il tramite di RAM, Infrastrutture, Logistica e Trasporti, la società in-house del Ministero dei Trasporti che gestisce queste pratiche, contributi che dovranno servire appunto a svecchiare, a rinnovare questo parco circolante italiano. Di questo e di molto altro parliamo oggi in compagnia del nostro ospite che è Ennio Cascetta, presidente e amministratore delegato di RAM. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, dicevamo, un mondo dell'autotrasporto sempre più sostenibile anche grazie a questi incentivi del governo. Le domande, se non sbaglio, partono dal 1 ottobre. In che cosa consistono questi incentivi e come sono stati divisi in queste due annualità 2020-2021? Ma gli incentivi sono incentivi, diciamo, alle imprese per il rinnovo del parco veicolare. Ovviamente l'intendimento è quello di accelerare il rinnovo fisiologico, no, per invecchiamento degli automezzi, privilegiando appunto gli automezzi che potessero avere un minore impatto ambientale. Quindi innanzitutto quegli Euro 6 che ovviamente sono con standard emissivi molto più bassi dei precedenti, ma anche con alimentazioni alternative, quindi gas liquido e a metano. Quindi è una spinta, fra virgolette, a rendere più veloce un ricambio naturale in modo da avere veicoli che inquinano di meno, quindi consumano di meno, inquinano di meno e sono anche più sicuri, perché è evidente che un automezzo nuovo ha dei sistemi di sicurezza attivi e passivi più sviluppati rispetto a un veicolo che è un Euro 4, un Euro 3 addirittura. Quindi si va nella direzione più generale della sostenibilità in termini sia di sicurezza che in termini di impatto ambientale. Ecco, il suo è un osservatorio sicuramente privilegiato di questo mondo, il mondo dei trasporti. Lei stesso è un profondo conoscitore della materia, ha seguito per anni anche l'evoluzione del settore nella sua interezza, quindi tra le varie modalità, non solo la gomma ma anche la ferrovia e il mare. Ecco, dove sta andando il mondo italiano dei trasporti dopo la fine del lockdown e con la, speriamo, immediata e veloce ripresa piena delle attività produttive? Cosa aspetta questo mondo? Ma guardi, io penso che il lockdown da questo punto di vista sia stato un amplificatore di visibilità. Gli addetti ai lavori sanno bene che il trasporto delle merci, più in generale la logistica, che è trasporto e magazzinaggio, sono delle, diciamo, attività fondamentali per il funzionamento di una società, di un'economia. Io dico che la logistica è quella cosa che ci tiene ogni giorno a 5 giorni dalla carestia. E questo è, spieghiamola è così, questa cosa significa in pratica? Significa che se si fermasse scorte, il mondo dei trasporti. No, perché significa che le scorte di tutto, medicinali, cibo, tutto, no? Materie prime per l'industria, carburante, al più valgono 5 giorni. Quindi se entro i 5 giorni non arrivassero dei rifornimenti, dei nuovi vestiti, dei nuovi mobili, delle nuove autobotti, eccetera, eccetera, eccetera, noi fra 5 giorni saremmo alla carestia totale, cioè non avremo più nulla. E quindi è proprio la logistica che ci tiene ogni giorno a 5 giorni. Ogni giorno ci tiene a 5 giorni dal momento in cui finiscono tutte le scorte di tutto. Quindi ecco perché la tenuta di questo sistema è così è fondamentale certo, per un paese. Questo, ripeto, gli addetti ai lavori lo sanno da sempre, l'opinione pubblica lo ha scoperto un po' durante il lockdown, dove accanto agli angeli, diciamo così, del mondo della sanità, ci siamo resi conto anche che erano i camionisti, i piloti di navi, i piloti di treni, che hanno consentito a tutti noi di stare a casa, ma continuare a mangiare, a trovare gli scaffali dei supermercati pieni, andare in ospedale e trovare le medicine, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in questi mesi, diciamo, l'opinione pubblica italiana ha scoperto di quanto è importante questo sistema. È un sistema che nel nostro paese oggi è debole. Due dati per tutti: la congestione, i ritardi della logistica, eccetera, hanno una bolletta, diciamo così, costano all'Italia circa 15 miliardi di euro all'anno. Quindi noi, il paese brucia letteralmente 15 miliardi di euro per tutta una serie di inefficienze logistiche, e non è poco. E dall'altra, la logistica italiana è una logistica molto poco italiana, quindi il 70% delle merci che l'Italia scambia con l'estero, in import e in export, fondamentali per la nostra economia, sono gestite da vettori non italiani. Quindi questo significa che, data la rilevanza strategica, abbiamo detto, della logistica per la resilienza del paese, e data anche, come dire, la limitata capitalizzazione e organizzazione delle imprese di logistica e di trasporti italiani, io penso che una delle grandi prospettive di sviluppo del paese, ecco, un'iniziativa di recovery, diciamo, del paese, dovrebbe essere quello di fare una politica industriale per la logistica italiana. Quindi i contributi che abbiamo detto per il ricambio dei mezzi, ma anche investire sul personale, chi guida un camion, soprattutto un camion di quelli nuovi di cui stiamo parlando adesso, non è molto diverso da un macchinista che guida un treno o da un pilota di nave commerciale, mentre la percezione è ancora quello di un lavoro sottoqualificato, no? Sottoskillato. Quindi la formazione io penso sia molto importante per produrre gli autotrasportatori del futuro, per riconvertire gli autotrasportatori di oggi. Se è vero quello che abbiamo detto prima, noi possiamo guidare lo stesso camion in modo molto più sicuro e molto più sostenibile, se sappiamo come fare. E quindi la formazione, che per esempio RAM sta gestendo questo programma Guidiamo Sicuro del Ministero e dell'Albo, soprattutto degli autotrasportatori, è un programma di formazione online e di formazione pratica con i simulatori, con gli automezzi reali, che dovrebbe garantire ai 1800 autisti che lo stanno seguendo un bollino che sarebbe anche bello che fosse riconosciuto ufficialmente dallo Stato italiano come un elemento di qualificazione dell'autista, cioè un autista che sostiene, che si aggiorna, che guida meglio, che produce meno rischi di incidenti e che consuma meno carburante e quindi fa meno inquinamento, è un autista di cui ci si può, fra virgolette, fidare di più, è un autista che guida sicuro e sostenibile, e quindi gli possono essere consentite una serie, come dire, di agevolazioni. Ecco, quindi bisognerebbe andare, e io mi auguro che questa sia l'occasione buona, verso un programma di sviluppo della logistica. Abbiamo parlato molto di autotrasporto anche per la natura della trasmissione, ma questo ragionamento vale per tutta la logistica intermodale, quindi strada, ferro e mare, e per fare, ripeto, di questo settore uno dei settori forti del nostro paese, perché è da questo settore che dipende la nostra sopravvivenza. Bene, termina qui questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica, con un focus specifico, come ricordava poco fa il professor Cascetta, proprio sull'autotrasporto. Salutiamo e ringraziamo il professor Ennio Cascetta, presidente e amministratore delegato di RAM, Infrastrutture, Logistica e Trasporti, società in house del Ministero dei Trasporti. L'appuntamento con Container torna, come al solito, sabato intorno alle 13.15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.